undici, sto aspettando te. Lei scese profumata più che mai. Oh, fecero due conti in tasca e non videro che non ci si ballava neanche un po'. Lei gli disse: questa sera voglio far l'amore, prima però portami a sognare. Un fascio di luce va dal proiettore. Proverò a tirarti lì via. Posso solo questo sogno. Scusa per la mia fantasia. Giù in parte a sedie di legno. Dolesse che per la sete d'eroe. E Marlon Brando è sempre lui. Marlon Brando è sempre lui. Tanto film, Terry Malo infine vince lui. Lui le dice: vedi, in fondo siamo sempre qui. E non è obbligatorio essere eroe. Un fascio di luce va dal maggiore. Proverò a tirarti lì via. Posso solo questo sogno. Scusa per la mia fantasia. Giù in tante a sedie di legno. Dolesse che per la sete d'eroe. E Marlon Brando è sempre lui.